Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata, penso proprio che oggi metteremo fame a moltissimi radioascoltatori perché parleremo di pasta, insomma parlare di pasta in questo paese di mangiatori, di grandi mangiatori di pasta è come parlare di calcio, sicuramente ci saranno scontri, chi la preferisce al dente, chi più cotta, chi la preferisce di grano italiano, chi di monograno, chi di trafila al teflon o al bronzo, ma ecco mi chiedo, ma gli italiani conoscono come viene prodotta la pasta? Conoscono cos'è la pasta al dente? Cioè, se ci sono mezzi per poter dire questa pasta al dente oppure non lo è, oppure è tutto soggettivo? Bene, andremo a risolvere un po' tutti questi, diciamo, dubbi, dilemmi. Con degli esperti, con dei produttori di pasta, ma anche con dei cuochi. E poi tutti possono intervenire, credo che su questo argomento tutti abbiano qualcosa da dire. Numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo da Riccardo Felicetti, amministratore appunto del pastificio Felicetti di Predazzo. Buongiorno Felicetti. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con lei voglio cominciare un po' dal grano, dai grani. Perché si dice sempre in Italia non c'è grano sufficiente, anzi ce n'è veramente molto poco per fare una pasta tutta italiana. Poi viene da pensare che ci sono tanti campi magari che sono incolti e viene il dubbio, ma non si potrebbe produrre molto più grano italiano. Però lei voglio chiedere innanzitutto, ma c'è differenza tra la pasta che si legge sul pacchetto monograno a delle paste dove non c'è questo tipo di indicazione? Quindi vuol dire che sono una cuvée di vari grani? Beh, devo dire che innanzitutto di grano italiano non ce n'è sufficienza per produrre tutta la pasta che i pastifici italiani producono. Non lo so, in effetti se è realmente vero che si potrebbe coprire tutto il fabbisogno dei pastifici producendo tutto il grano italiano, tutto il grano duro in Italia. E ho i miei dubbi e le mie perplessità. In effetti noi abbiamo un deficit produttivo in Italia di quasi il 40% delle quantità che sono necessarie ai pastifici. Non siamo noi a dover stimolare questo, è l'agricoltura, che il sistema agricolo che deve in qualche maniera pensare se sia sufficiente e se mai fornirci grano duro a sufficienza. Devo dire che la qualità poi per i pastifici è determinante e non sempre la qualità del grano duro italiano è sufficiente per rispondere a quelle che sono le caratteristiche che a noi servono per produrre quello che è l'ottimo prodotto che tutto il mondo ci invidia. Non dimentichiamo che più del 50% della pasta prodotta in Italia viene esportata. L'Italia produce un quarto della pasta che viene consumata al mondo, i tre quarti della pasta che viene consumata in Europa. Siamo leader incontrastati a livello mondiale nella produzione della pasta, che sia poi fatta in determinate maniere, da pastifici artigianali, da pastifici industriali, ognuno all'interno del suo segmento di mercato si è ritagliato una fetta importante, però tutta la pasta italiana è decisamente ottima perché ogni consumatore può trovare all'interno di questa enorme offerta di formati e di prodotti quello che più gli piace, e per noi come pastai italiani questa è la cosa più importante e più fondamentale. Bene Felicetti, lei fa molto bene il suo mestiere di presidente del pastai italiano, ha fatto un manifesto della pasta, ma ora sentiamo Giuseppe da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Sì, pronto, buongiorno. No, io darei a dire che sono di origini pugliesi, quindi da noi nel Tavoliere delle Puglie di grano se ne produce, però è pochissimo, non basterebbe per la sola città di Bari per un solo giorno, quindi non capisco il motivo per il quale non si riesca, al di là dei costi di produzione, a produrre grano italiano. Bene, ho un appunto, stavo leggendo questa richiesta di questo radioascoltatore che diceva che secondo lui la pasta al supermercato da 70 centesimi a 2 euro è tutto uguale. Bene, siccome abbiamo con noi un produttore di pasta di Gragnano, Giuseppe Di Martino del pastificio dei campi appunto di Gragnano, chiedo a lui, secondo lei Di Martino le paste sono tutte uguali, quelle vendute da 70 centesimi a 2 euro? Buongiorno, ma insomma tutte uguali mi sembra un po' un una cosa un po' qualunquista, no, non sono tutte uguali, da 70 centesimi a 2 euro ci sono una serie di differenze qualitative che possono essere sia di processo che di materia prima, che di una serie di attenzioni, di packaging, di utilizzo per il consumatore, ci sono tanti gli aspetti della pasta, la pasta sembra un prodotto semplice e banale, non lo è. Ecco, senta, diciamo che a Gragnano negli ultimi 15 anni veramente è diventato un marchio di qualità, conosciuto un po' in tutto il mondo per la pasta. Le volevo chiedere, il grano usato per la pasta di Gragnano in genere, poi arriviamo anche alla sua azienda, è di provenienza in parte nazionale, in parte estera o tutta in parte estera? No, la pasta di Gragnano è una pasta che è l'unica pasta italiana che ha un disciplinare IGP riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, non ha una richiesta legale per la provenienza. Grande parte però della pasta di Gragnano viene fatta con grano italiano per un problema di gusto. Ecco, avete un disciplinare che credo avete sottoposto alla Comunità Europea per avere l'IGP, se non erro. Assolutamente, per ora c'è la proprietà transitoria in Italia, siamo in attesa nei prossimi mesi, due mesi, per avere quello definitivo della comunità, per ora in momento siamo in proprietà transitoria. Ecco, riguarda delle specifiche produttive, non lo so, la trafila per esempio, è completata, cioè è contemplata, deve essere di bronzo, non deve essere di bronzo, può essere varia? Assolutamente, il disciplinare dell'IGP come di tutti gli IGP ha in mente quello della tutela del consumatore per ciò che riguarda un prodotto che viene riconosciuto essere qualitativamente apprezzabile dal mercato e quindi mette giù una serie di regole che riguardano il processo. Una di queste assolutamente è la trafila che tradizionalmente a Gragnano è fatta con il bronzo e quindi lascia la superficie della pasta più ruvida. Ecco, una cosa, dunque, quindi il grano, diciamo, uno è lasciato libero perché sicuramente non ci sono delle restrizioni legislative o di altro disciplinari. Le volevo chiedere, secondo lei si può fare una pasta tutta italiana? Lo chiede la persona giusta, io faccio pasta non solo tutta italiana ma anche tracciata, cioè una pasta a cui il consumatore può accedere alla provenienza del grano in maniera semplice, gratuita e precisa, perché riusciamo a dire al consumatore che va sul nostro sito la provenienza con le coordinate GPS del campo di grano da cui viene la pasta, il grano con cui è fatto il suo pacchetto di pasta. Bene, rimanga con noi Di Martino, sentiamo Luigi da Grosseto. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io sono un produttore di grano d'oro italiano. Sì. Sto chiamando dalla Maremma, Grosseto, e dove si produce, o forse insieme alla Puglia, si producono i migliori grani duri del mondo. Io volevo confutare quello che ha detto il produttore Felicetti, perché il problema della semina di alcuni grani, di molti terreni, o la riduzione di superfici, è dovuto a prezzo non remunerativo per la produzione italiana, perché noi non possiamo produrre il grano a 25, 26, 27 euro quest'anno, quando l'anno scorso costava 14, 15, 16, 18 euro. Noi, il grano nostro non è fatto per produrre la pasta a 70 centesimi, 80 centesimi al chilo, questo deve essere ben chiaro, e i produttori di pasta dovrebbero mettere sull'etichetta la provenienza dei grani, perché col grano ucraino o col grano russo o col grano si fanno le paste da 70-80 centesimi al chilo, ma lì quella non è pasta italiana, quella è pasta che loro stanno rischiando di compromettere il made in Italy, no? che tanta fama ha prodotto e porta ai pastifici italiani, praticamente col fatto di miscelare col grano ucraino, col grano di Chernobyl, eccetera, eccetera, le paste. Bene, grazie. Ora sentiremo tanti altri produttori, perché Giuseppe Di Martino dice che produce con grano italiano, quindi non è la persona indicata per rispondere, e che chiariremo a questo punto. Ora abbiamo con noi, visto che ho lanciato anche l'idea della pasta al dente, nel senso, cos'è la pasta al dente? Perché tutti dicono io cuocio al dente, a me piace la pasta al dente, ma sicuramente la pasta al dente per una persona non è sicuramente la stessa che lo è magari per un'altra persona. Allora io ho chiamato in causa un grande esperto di pasta che è Gennaro Esposito. Buongiorno Gennaro. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Io so che tu hai messo a punto così un sistemino per sapere quando la pasta è al dente o non lo è così? In realtà no, non ho messo a punto un sistemino, no? Non diciamola troppo grossa. In effetti, dalla incrocio delle competenze con i tecnologi alimentari di alcuni pastifici, come nel caso di Gelato Dal Bon, abbiamo utilizzato gli stessi strumenti che utilizzano normalmente i pastifici per testare la qualità della pasta. Per cui con questo vetrino, che non è altro che due pezzetti di plexiglass o di vetro, noi arriviamo a stabilire se la pasta è cotta completamente rimanga o no al dente, perché la pasta al dente significa una pasta perfettamente cotta che non abbia l'animella bianca al centro e così cotta rimanga al dente, cioè che abbia questa piacevole masticabilità che riconosciamo con la parola al dente. Bene, rimani con noi, sentiamo Gianluca dalla provincia di Brescia. Buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno. Io esulo un po' con la mia domanda, esulo un po' da quello di cui state parlando. Io chiedevo semplicemente questo: proprio per Natale devo fare un regalo a mia moglie, ovvero una macchina per la pasta, perché lei adora cucinare e ha deciso di avventurarsi anche nel mondo della pasta fatta in casa. Chiedevo dei suggerimenti sia in merito, se è possibile, a qualche tipo di macchina, marca, se è possibile accennare, e qualche consiglio appunto su Gianluca, noi vegano, trafile. Gianluca, noi possiamo semplicemente chiedo a Gennaro se la pasta fatta in casa con una macchina può venire fuori anche una pasta di una certa qualità, ma non la marca. Gennaro, allora, no, diciamo che noi qui stiamo parlando di grano duro. Appunto. E quindi diciamo è un campionato diverso, però voglio dire, se la signora appassionata di cucina vuole fare della buona pasta, per cominciare secondo me è molto più interessante utilizzare un mattarello. Bene. Poi piano piano vediamo. Bene, grazie Gennaro. Sentiamo Rosanna dalla provincia di Brescia. Buongiorno Rosanna. Pronto, buongiorno. Prego. Ascolti, io volevo tornare invece sul discorso della qualità della pasta puntando il dito, non so se posso dire le marche. Perché cosa, scusi? Mi pasta. Sì. Dica pure. Sì, ecco, mi sembra che siano delle discrete marche di un buon livello qualitativo, tipo la De Cecco, la Voiello, ecco, pur restando su una categoria di paste industriali. Ecco, volevo dire, siccome negli ultimi tempi molto spesso troviamo questa pasta, queste due marche anche, in offerta anche al 50%, dobbiamo dubitare sulla qualità, cioè questo può andare a discapito della qualità? Bene, guardi, dopo abbiamo un tecnologo della De Cecco, chiederemo a lui, visto che lei ha parlato di due marchi, uno di questo della De Cecco, chiederemo a lui sicuramente. Io credo che siano offerte dei supermercati ad hoc, fatti dai supermercati e decise dai supermercati, non credo che siano paste diciamo di scarto che poi vengono rimesse in vendita, assolutamente. Comunque vedremo. Bene, io vorrei tornare a Giuseppe Di Martino, appunto, che rappresenta la pasta di Gragnano, anche perché credo che lui sia presidente appunto anche del consorzio dei pastai di Gragnano. Senta Di Martino, quando si legge sulla busta di Gragnano, pasta di Gragnano, diciamo che hanno tutte quelle caratteristiche di cui lei parlava prima, quindi fanno parte del consorzio? Allora, se è legge dello Stato, per cui la scritta pasta di Gragnano IGP ormai è tutelata. È chiaro che è appena nato l'IGP, per cui ci saranno ancora in giro delle marche che in buona fede, nel grande parte dei casi, scrivono pasta di Gragnano. Non è più possibile scrivere pasta di Gragnano senza scrivere pasta di Gragnano IGP e quindi senza rispettare pedissequamente il disciplinare, che indica una quantità minima di proteine, quindi con un occhio alla qualità della materia prima e molte, moltissime fasi del processo che vanno a regolamentarlo, per cui si può essere sicuri quando si vedrà il marchetto del consorzio pasta di Gragnano IGP, è certo che è una pasta fatta a Gragnano secondo un disciplinare molto preciso. Bene, grazie Giuseppe Di Martino. Gennaro, le differenze tra pasta liscia e pasta rigata, quando si usa l'una e quando l'altra? Ma diciamo, io sono io adoro la pasta liscia, per me la pasta è liscia. La pasta rigata, come dire, ha un suo gradimento, però una vera pasta, una pasta di qualità è senz'altro una pasta liscia. È lì che possiamo apprezzare meglio la qualità della pasta, perché soprattutto una pasta trafilata in bronzo, è essiccata a lenta temperatura, a bassa temperatura per tanto tempo, ci dà una quella masticabilità che dicevo prima, che con un rigo onestamente daremo solo fastidio, ecco, a questo concetto di qualità. Una pasta rigata di solito noi pensiamo subito al rigatone, alla matriciana, che però in quel caso è una preparazione tradizionale, diciamo rientra in il discorso della ricetta, però io posso dare un consiglio a tutti di utilizzare più pasta liscia, perché è lì che sappiamo meglio scegliere una pasta di qualità. Ho capito, quindi diciamo questa è una tua scelta, sicuramente magari vediamo se ci sarà qualche radioascoltatore che la contesterà. Grazie Gennaro. Abbiamo con noi Andrea Cavalieri dell'antico pastificio Benedetto Cavalieri a Maglie, in provincia di Lecce. A lui voglio chiedere un po' questo che vedo molti radioascoltatori chiedono: ma è vero che il grano italiano costa troppo per la produzione di pasta in Italia e quindi per essere concorrenziali si compra grano dall'estero, o ci sono anche altre motivazioni? Innanzitutto buongiorno a lei Davide e a tutti gli ascoltatori. Questa è sicuramente una domanda importante. Il grano italiano ha delle caratteristiche organolettiche sicuramente superiori a dei grani che vengono dall'estero. Nel mondo della pastificazione si importano spesso grossissime quantità sia dal Canada che dagli Stati Uniti. Un ascoltatore da Grosseto, se non sbaglio, sì, certo, menzionava, secondo me erroneamente, delle provenienze da Chernobyl, dalla Russia, facendo pensare che queste produzioni possano essere in qualche modo nocive. Bene, le produzioni dal Canada e dagli Stati Uniti non sono nocive, ma sicuramente hanno delle caratteristiche organolettiche, quindi sapore e odore inferiori a mio modo di vedere rispetto al grano duro nazionale, seppur abbiano dei tenori proteici molto alti e per questo sono apprezzati dall'industria pastaria. Detto questo, il prezzo, credo che i grani di qualità vadano sempre pagati, vada incentivata questo tipo di produzione. Noi in azienda infatti utilizziamo principalmente grani duri che vengono dalle soleggiate ventose colline del nord della Puglia e della Basilicata. Sono coltivati su aree vocate senza un massiccio uso di fertilizzanti chimici. Però, come lei sa, come anche avviene per il vino, anche il grano segue l'andamento di quella che è l'annata agraria, quindi ci possono essere delle annate che non sono all'altezza della fama del grande grano italiano, e per questo proprio in quelle annate noi misceliamo delle piccole quantità di grano che viene da una zona molto particolare, un grano di altissima qualità. Io quindi non farei una divisione, il grano italiano qualità, il grano straniero di bassa qualità. Ci sono anche dei grani stranieri che hanno delle caratteristiche qualitative molto importanti. Bene, grazie, rimanga con noi. Bene, grazie, ora sentiamo Manuel Mariani, che è responsabile di sviluppo prodotto della Barilla, che è leader sia in Europa che negli Stati Uniti. E a Mariani voglio proprio chiedere questo. Loro, cioè, diciamo, la Barilla produce ormai negli Stati Uniti da lungo tempo, e per questo che è diventata poi leader su quel mercato, quindi un approvvigionamento diretto del grano in quel paese. Ecco, richiedo anche lei questo: ma c'è molta differenza tra il grano italiano, il grano canadese e il grano americano? Innanzitutto buongiorno. Allora, c'è da dire che un parametro fondamentale per giudicare la qualità dei grani sono le proteine, che poi sono quelle che permettono di ottenere pasta di qualità. Proteine e colore sono fondamentali. Se andiamo a vedere le caratteristiche di quantità di proteine contenute nei grani americani e il loro colore, molto spesso sono anche superiori ai grani nazionali. Quindi in realtà la pasta in America si può fare benissimo con grani locali, come poi invece d'altra parte abbiamo lavorato negli ultimi anni moltissimo in Italia per alzare il livello qualitativo dei grani italiani, e proprio su questi parametri. Quindi in realtà è un processo in divenire, cioè il grano non è una cosa ferma nel tempo, ma esso si, si evolve e tendenzialmente si evolve verso il meglio, ecco. Bene, rimanga con noi, sentiamo Massimo dalla provincia di Salerno, c'ho moltissime telefonate da Salerno, da Palermo e da Napoli, è andata giù la linea, sentiamo sempre Angelo dalla provincia di Salerno, allora sentiamo un altro salernitano, prego Angelo. Sì, buongiorno, io volevo approfittare appunto della presenza dei suoi ospiti per fugare un dubbio, diciamo una curiosità che mi è venuta girando per le grandi distribuzioni. Io sono, diciamo, una persona di quelle che guarda le etichette e spesso mi capita di vedere che i prodotti a marchio di grande distribuzione hanno un'origine locale, a differenza magari dei prodotti di marche note. E soprattutto ho visto questo con la pasta. La pasta, quella al Carrefour, supermarchiata Carrefour, che viene prodotta a Gragnano in via dei Pastai 42, che spulciando un po' tra le varie paste è proprio la sede di una nota marca di pasta di Gragnano. Adesso l'ho provata ed è ottima, però mi chiedevo, cioè, siccome costa un 30% anche in meno rispetto all'omonima pasta, diciamo, di marca, volevo capire se ci fosse qualche differenza qualitativa. Beh, probabilmente queste sono le label private e magari ci sono quantitativi maggiori rispetto poi a quello che l'azienda di cui lei ha trovato l'indicazione mette sul mercato. Eppure ci sono anche magari costi inferiori che la grande distribuzione ha sulla distribuzione rispetto a un'azienda privata che deve distribuire in tutto il territorio. Però l'importante è che ci sia scritto dove viene prodotta, questo è importante perché molte volte... Il bello che sul marchio non c'è. C'è scritto pasta trafila speciale, però leggendo sotto, diciamo nell'etichetta in piccolo, purtroppo sì. Prodotta a Gragnano in via... Purtroppo lei ha ragione, viene sempre messo in minuscolo questo fatto abbastanza importante. Cioè, diciamo che per altre etichette si è raggiunto l'equiparazione sui caratteri tipografici, speriamo che prima o poi si riesca a ottenere per tutte le etichettature. Volevo chiedere, allora Arnaldo dalla provincia di Rovigo, buongiorno Orlando. Arnaldo, buongiorno. Arnaldo Povolento, produttore di sementi polesani, provincia di Rovigo. Noi operiamo su territori come Emilia-Romagna, Veneto, Basso Veneto e Medio Veneto. Sì. Operiamo anche con grossi gruppi industriali, quali per esempio che ha avuto prima il suo ospite Barilla, e l'unica cosa che posso garantirle è che per quanto concerne i grani nostri italiani, questi grossi gruppi industriali effettuano effettivamente grossi controlli e grosse selezioni al momento della consegna, cioè se il grano non ha determinate caratteristiche che loro ritengono importanti anche da un punto di vista di salubrità, il grano non entra in questi stabilimenti, cioè il grano viene respinto. Beh. Detto questo però io sarei anche abbastanza incazzato sull'aspetto per quanto concerne il legislativo. Noi abbiamo il famoso DDL 2260, che è la famosa legge sull'etichettatura, che è diventata legge nel gennaio 2011 e lì non si sa più niente che fine ha fatto questa etichettatura. Lo stesso dicasi anche per i biscotti, noi lavoriamo anche e operiamo anche in questo settore con la Barilla, che è la stessa cosa, pasta e biscotti, ma che fine ha fatto? Io sono convinto, vede, che se le nostre associazioni, i nostri legislatori mettono in pratica quello che effettivamente è già legge, perché l'etichettatura con il DDL 2260 è già legge, quindi basta mettere in pratica questa legge e io sono convinto che i nostri consumatori verrà riconosciuto il diritto ai nostri consumatori, come avrà il nostro Made in Italy e le nostre aziende agricole avranno da questa etichettatura avranno diciamo così più sviluppo. E un'altra cosa, attendi che i nostri grani, o almeno quelli che produciamo noi, sono tra i migliori a livello mondiale, che se ne dica, colori, sapori. Primo. E in secondo luogo i nostri disciplinari a livello aziende agricole siamo leader mondiali, cioè noi non siamo secondi né i francesi né i tedeschi, produciamo i migliori grani anche da un punto di vista, diciamo così, del controllo. Grazie Arnaldo, il problema dell'etichettatura torna ogni volta che trattiamo un prodotto alimentare, è una lamentela continua, esistono tutti, si dice sempre, esistono i regolamenti, non esistono le applicazioni, non esistono i controlli, questo ormai è un refrain che torna su tutto, torna sull'olio, torna sui pomodori, torna un po' su tutto e quindi è un problema molto serio che non viene mai affrontato purtroppo. Bene, sentiamo Antonio dalla provincia di Napoli, mi sembra. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno. Davide Paolino, sono Tony Marchetti. Ah, buongiorno Marchetti. Saluti anche a Gennaro Esposito, sì, di cui mi ricordo. Antonio, andiamo al sodo, che ho poco tempo, Antonio. Un famoso articolo, Canneroni, do you know. Sì, no, sì. Due cose, voglio dire che a parte la determinazione della cottura al dente, mi sembra che ci sia parlato poco di sapori della pasta. E quindi il problema è assolutamente riferibile a due questioni, alla trafila in bronzo, che non è uno strumento per fare solo una superficie ruvida a cui attaccare meglio i sughi, ma che è una fase del processo produttivo artigianale che favorisce proprio la crescita di queste sostanze aromatiche che si sviluppano nell'essiccazione se la superficie della pasta è ruvida, proprio perché è passata nelle trafile di bronzo. Farei un appello, scusate, non è politica, al Presidente del Consiglio Monti, perché in Italia si possa tornare a coltivare tutte le superfici agricole libere, a fare più grano duro in Italia, ad occupare più giovani in agricoltura e ad importare meno un prodotto con il quale vogliamo solo far intendere che si ha migliore qualità. Bene Antonio, grazie, perché Antonio, la persona che ha chiamato, lo conosco molto bene, è uno dei più grossi esperti di pasta, quindi grazie Antonio. Grazie Antonio, ora sentiamo il discorso della trafila, abbiamo con noi un tecnologo molto importante, e Gerardo Dalbon è un tecnologo della De Cecco. Cosa ne pensa appunto su questo pensiero di Antonio sull'importanza della trafila? Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Prego. Per fare la pasta buona non serve la trafila, oppure serve la trafila, serve la materia prima, serve tutto. Una pasta diventa di alta qualità se si controlla tutto il processo dall'acquisto del grano, dalla macinazione, che è importantissima, importante macinare, avere della semola di grossa granulometria, allora si fa la qualità. Se la semola è fresca, se si impasta con acqua fredda per tempi lunghi e se si essica a bassa temperatura. Ho cercato di sintetizzare, però la qualità e l'alta qualità di un prodotto si fa solo curando con la massima attenzione tutti i dettagli. Quindi ben venga la trafila al bronzo, però non è quella che fa la qualità. Ci sono tante paste al bronzo che sono mediocri, perché non sono fatte con il controllo rigoroso della filiera. Quindi grazie Dalbon, rimanga con noi perché è importante questo. Quindi tutto il controllo della filiera. Bene, abbiamo con noi una produttrice di pasta che credo sia l'unica in Italia, non so se in Europa, nel mondo, che usa la trafila d'oro. È Francesca Petrei Verrigni, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiederle, siete gli unici che usate la trafila in oro invece che di quella di bronzo o in teflon, e perché? Ma dunque, diciamo che il mondo della pasta è un mondo nel quale si è detto un po' di tutto e noi abbiamo cercato di ricercare un quid in più che potesse conferire alla nostra pasta una caratteristica, se possibile, migliorativa. Riteniamo poi che il fatto di aver trafilato alcuni formati in oro e che i nostri chef abbiano riscontrato un miglioramento in alcuni formati appunto trafilati con questo metallo, e che poi i blind test che abbiamo fatto realizzare da un apposito laboratorio qualificato hanno confermato, sono una serie di motivazioni per le quali riteniamo che questo tipo di trafilatura, conferendo un minore stress alla superficie esterna della pasta e una particolare porosità e capacità di aderire ai sughi, possa essere una caratteristica migliorativa. Ovviamente, dottore, parliamo di sfumature, perché come diceva giustamente poco prima di me Dalbon. La ringrazio il dottor Dalbon. Io ritengo che effettivamente la scelta della materia prima, che nel nostro caso è solo italiana, e il lavoro dell'uomo siano appunto gli elementi fondamentali per realizzare un ottimo prodotto da offrire al nostro consumatore. Bene, sentiamo Renato da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Renato. Buongiorno, volevo ricollegarmi all'ultimo intervento che è oggetto della mia chiamata. Noi tutti sappiamo ormai che con la globalizzazione si porta navi enormi 20 giorni prima dell'asta dei grani, che portano, io ho visto a report da altre parti, ben 1000 camion di grano, per cui chiaramente il prezzo fatto ai produttori italiani è per forza calmierato, per cui che interesse hanno a produrre di più se si può avere più buon prezzo grano australiano o ucraino, visto che la gestione dell'acquisto dei grani è gestita, a quanto mi risulta, da 4 grosse agenzie mondiali che quindi spostano quantità incredibili. Cosa possa fare un agricoltore italiano per mettere in produzione il grano e poi dopo 6 mesi metterlo in vendita a un prezzo sempre inferiore a quello che viene dall'Ucraina, chiaramente pone il problema alla base, chiaramente non ci sarà mai uno sviluppo se non c'è un accordo in qualche maniera, se può essere trovato. Beh, tra i produttori e quelli di pasta e quei produttori di grano, chiaramente, perché quindi lei dice che se non c'è un accordo, diciamo, di filiera tra produzione italiana di grano e produzione di pasta, non si possono raggiungere risultati che facciano sì che cresca la produzione di grano in Italia. Questa mi sembra la sintesi del suo intervento. Una nave contender enorme, vengono scaricati 1000 certo. camion di grano. Bene, certo. grazie a Renato da Firenze. Dal Bon, è così la realtà? La realtà può essere così. All'estero noi abbiamo bisogno di fare delle miscele di grano per garantire la qualità del nostro prodotto. Compriamo tanto grano in Italia, ne compriamo anche all'estero, ma di grande qualità. Questa, cioè, dipende uno cosa vuol comprare. Poi, se mi permetti, Davide, certo. Volevo fare un commento su delle cose che ho sentito prima, è possibile? Sì, brevemente, okay. Perché sentivo parlare del marchio di Gragnano come di qualità. Vorrei far presente al consumatore che più dell'80% della pasta di Gragnano è prodotta dall'industria e con essiccazione ad alta temperatura. Questa è la caratteristica della maggior parte di questo prodotto. Beh, questo è fuori disciplina. Scusa, è fuori disciplinare della pasta di Gragnano? Quella che oggi si trova sui pacchetti pasta di Gragnano. Poi volevo dare un consiglio al consumatore, perché la differenza sostanziale per trovare della pasta buona oppure della pasta industriale è l'essiccazione ad alta temperatura. E basta, c'è una cosa semplice da fare: quando il consumatore va in un supermercato, compra un sacchettino di semolino e poi si avvicina alle paste e guarda il colore delle paste, quelle che hanno un colore più intenso, che tende magari anche un po' al marroncino, sono tutte paste essiccate ad alta temperatura. Poi faccia il consumatore la sua scelta. Bene, ecco, però volevo fare un inciso sulla pasta di Gragnano. Probabilmente c'è anche pasta che viene prodotta a Gragnano, ma ci sono produttori che sono al di fuori di questo accordo, di questo disciplinare che si sono dati. Quindi potrebbe essere anche la provenienza indicata di un pastificio di Gragnano che non fa parte, appunto, del consorzio costituendo che ha chiesto l'IGP e quindi indica la pasta di Gragnano. Succede anche molte volte nei ristoranti che venga detto: questa è la pasta di Gragnano, poi bisognerebbe andare a vedere in cucina se è vera pasta di Gragnano oppure se è il ristoratore che dice così, perché in questo momento è un marchio molto importante e molto conosciuto. Questo non lo so, cioè Dalbon ha fatto un'affermazione molto, molto importante, per cui io metto i puntini su lì di verificare, appunto, se si riferisce anche a pastifici che fanno parte di questo accordo, di questo disciplinare, oppure di pasta che c'è solamente un'indicazione geografica e questo non implica far parte del disciplinare di produzione. Questo credo che sia importante specificarlo. Bene, allora abbiamo parlato poco di pasta in cucina, ne parleremo magari in un'altra puntata. Oggi abbiamo parlato prevalentemente di grani, che mi sembra che sia il problema principale anche per una realtà agricola italiana, sicuramente che non è delle più splendide, che col grano potrebbe magari anche crescere e rendere molto di più, produrre molto di più. Bene, abbiamo chiuso questo giro di pasta. Ringrazio Alessandro Baila in redazione e Peter Vescapè in regia.